la regione intermedia tra la luce e l'oscurità, tra la scienza e la superstizione, tra l'oscuro baratro dell'ignoto e le vette luminose del sapere. È la regione dell'immaginazione. Bella raga, sono Pietro. Anche di Solo Vinile Libri, io ascolto Do It Yourself Invasion, Radio Onda Rossa, dai! Quattro minuti passati le 21. Benvenuti e benvenuti a una nuova puntata di Do It Yourself Invasion. Siete l'ascolto di Radio Onda Rossa 87.9 in FM, della banda romana e laziale. Ricchi ospiti questa sera. Che si girano nello studio. Si cuffiano. Facciamo anche una prova di microfono. C'è? Per ritorna, ecco. Torna un po' meglio, ecco. Riproviamo? Sì. Sì? No. Do it, io così, vai. Do così. It yourself invasion. Appunto. Ma io non ti sento. No, io mi ritorno in cuffia, quindi. Ah, però, vabbè. Dai. Sì, eh. Fefo, vecchio compare. Vabbè, abbiamo passato begli anni insieme, ne passeremo delle altre. Questa sera ci è venuto a trovare. Eh sì, l'avevo promesso che sarei venuto nel... Anche perché io me la prendo molto comoda, eh. Quindi prima di riniziare il mercoledì siamo venuti a trovarti. Il mercoledì per ora lo rimandiamo di una due settimane. Già questa è saltata, insomma, e quando ci garberà, quando avremo, si riprenderà con l'incubo del mercoledì. Vabbè, sera. Siete in fase di ricarica. Esatto. E ovviamente ti aspettiamo in qualità di ospite, non tanto con le cose live e le cose registrate e autoprodotte, ma anche con come sai fare te, mettendo appunto i dischi, i vinili o quello che meglio ti piace, o YouTube, eccetera. No, anche perché insomma la passione per la psichedelia rimane sempre, quindi... Ti verrò a rompere le scatole con un po' di... Ma magari... Bisogna coltivarla, insomma. Eh sì, dopo... Magari quell'oretta dopo la mezzanotte. Ma perché no? By yourself right from the start, you live in doubt. Everything... Andiamo a ricordare un po' di contatti. Il sito della radio www.ondarossa.info. Sito attraverso il quale rimanere aggiornati con le notizie che vengono registrate nell'arco della giornata, le varie corrispondenze, i podcast delle trasmissioni. Sito attraverso il quale poter ascoltare la radio in streaming andando a cliccare su Ascolta. E sito attraverso il quale contribuire a mantenere in vita questo progetto nato libero nel 1977, autofinanziato e sostenuto grazie al vostro contributo, nonché alle varie iniziative che stiamo organizzando, prossimamente vi andremo a svelare questo quest'autunno abbastanza intenso e caldo. Potete contribuire attraverso il sito della radio, quindi www.ondarossa.info, andando a cliccare su Sostieni. Quindi come funziona? Ascoltate la radio, andate a cliccare su Sostieni, sottoscrivete con qualche spicciolo e noi continuiamo a trasmettere. Facile, no, Fefo? Sì, non so, diciamo quel noi, cioè noi come radio, ovviamente, è sempre il discorso, noi come noi, forse certo. non avete tutto questo interesse a farci continuare a trasmettere. Anzi, no. Solo la nostra tenacia, diciamo. O potete sostenere la radio attraverso lo storico conto corrente il 61 80 40 01, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Volci 56 00 185, Roma, San Lollo. Sì, sta in fase estiva il professore, Sì, però sono contento di essere tornato nel caos della radio, per cui per trovare un paio di forbici, diciamo, ho dovuto un po' rovistare dappertutto. Però questa è proprio la bellezza di Onda Rossa e il caos creativo che la contraddistingue, insomma, fa nascere poi continuamente nuove proposte, nuove cose dalla nostra folle, diciamo, eccentricità. Detto bene? Sì, no, benissimo. Folle eccentricità, sì. Ne parlavamo prima col professore. Questa è stata una delegazione di Onda Rossa, è andata al Rhodes Fest organizzato a Crispiano, vicino Taranto, alla masseria occupata. Festival delle autoproduzioni che si svolge da ben 8 edizioni. Quindi una valanga di gruppi fino al mattino, e può seguire DJ set trash fino alle 2 del pomeriggio, il tutto insomma condito dalla birra artigianale prodotta alla masseria occupata, un sacco di roba buona cucinata proprio lì alla masseria. Insomma, loro sono di casa, l'abbiamo visti appunto al Rhodes Fest. Ciao, siamo gli omofobici, anche noi ascoltiamo Do It Yourself Invasion. Vai ancora in piedi per sentire una gli obofobi che suonano sempre meglio dal vivo. Insomma, ci è piaciuto vedere, insomma, come è stato organizzato il Rozfest, come uscivano i suoni. E prossimamente, insomma, sì, no. Credo che poi in questo ambito abbiamo dato il nostro piccolissimo contributo di link, di incrocio appunto con dei compagni come gli Obofobic, tra l'altro producendo, credo, il loro ultimo lavoro, non so. Allora, hanno sì, prodotto altre cose dopo. Allora, loro insomma, ha avuto modo, insomma, di farci una chiacchierata coproducendo, coproducendo insieme a un sacco di altre realtà, tra cui Radio Blackout e mille altre distro. E, no, in pratica adesso hanno un problema perché non hanno più la saletta, quindi avrebbero anche dei pezzi pronti, però insomma non hanno un posto dove provare un paio di volte a settimana, e quindi sono fermi a livello discografico. Questo è il loro ultimo lavoro, Portami lontano da qui. Continuano a suonare, però suonano dal vivo e suonano sempre meglio. No, niente, volevo porre, insomma, l'accento sulla qualità del suono, appunto, che c'era al Rozfest. Qualità che ultimamente stiamo vedendo in giro, non dappertutto, ma spesso capita anche qui a Roma. Un esempio che ricordo è Ostepalusa. Quindi concerti totalmente auto-organizzati, autoprodotti, dove si sente da paura. E un'altra autoproduzione di Radio Onda Rossa è l'ultimo lavoro dei Kalashnikov. Che potete trovare qui venendoci a trovare in radio in vinile, L'algebra morente del cielo Carapetti. Una raccolta di sceneggiatura di film mai usciti. Quindi ogni traccia è un come se fosse un film a sé stante. Ce l'ascoltiamo con Milano Antartica. Non abbiamo ricordato i contatti della trasmissione. Spiato, secondo Wikileaks, dall'agenzia. Potete scriverci a fantasma@ondarossa.info per proporci i vostri lavori, le vostre autoproduzioni. Come hanno fatto i Dystopian Society. Gruppo di Firenze, New Wave. New Wave, Death Rock, insomma una bella commistione di marciume. Il loro secondo lavoro è uscito oggi. Se non erro, Overturn Reality. Quindi il lavoro uscito oggi, ce lo ascoltiamo in anteprima. Dystopian Society, questa è Radio Onda Rossa. Davvero un bel lavoro che ascolteremo nelle prossime puntate sicuramente. Quindi fatevi sentire. fateci sentire quello che fate. Oh, non abbiamo ricordato il numero. Il numero di telefono. Sì, perché. No, non bisogna toccarli i microfoni della radio, per carità. 0649 1750, quello solito, quello di sempre. E se mi dai proprio un secondo, volevo cogliere l'occasione per salutare un'altra nuova, la tua nuova Mi Radio e Stu Radio. Sì. No, quella che il Fantasma vi propone è per Radio Onda Rossa, è una trasmissione relativamente nuova, già ci sono state delle puntate, eccolo, vedi? 0649 1750, ci stanno, l'ascolto, spero che non sia la persona che credo. Io spero di no, cioè, spero che non sia la persona che credo. No, volevo salutare invece l'ingresso di una nuova trasmissione che invece è proprio alle primissime battute, che si chiama La Mischia e che va in onda la domenica, non so a che ora. Ma che, vabbè, due parole su questa trasmissione, che cos'è? No, perché no. Leggevo qui una iniziativa che ci sarà venerdì 18 settembre 2015, Casa delle Donne Lucia e Siesta, via Lucio VI 10 a Roma, proiezione di a qualcuno piace il calcio, poi aperitivo e dibattito, insomma, una iniziativa zero violenza, che poi ritorna pure in un altro contesto, e appunto mi veniva in mente di salutare la nuova trasmissione molto interessante che tratta sullo sport popolare. Sullo sport popolare praticato dalle persone, visto da un'angolazione, da un punto di vista, appunto, tutti gli sport visti dall'angolazione, dal punto di vista di chi lo fa dal basso, ecco, lo sport, e lo fa innanzitutto per divertirsi. Quindi la domenica a che ora? Questo lo dobbiamo, cioè non vabbè. Recupereremo, eh? Sì, no, sì. Beh, prima della fine della puntata, sì, vi diremo a che sì. ora c'è la Mischia domenica, sì. Visto che abbiamo tinto un po' di oscuro le sonorità di Do It Yourself Invasion, ci andiamo ad ascoltare l'ultimo lavoro dei Pioggia Nera. Che è Danze dei Miserabili. E questa è la settima traccia, Esseri di Nulla. dai Pioggia Nera passiamo ai Mar Nero, dal loro ultimo lavoro Il Sopravvissuto, che va a chiudere una trilogia sul naufragio. Questa è Rotta Irreparabile, ce la riascoltiamo da capo. E vi andiamo a presentare un'altra autoproduzione. E questo è il demo dei Sonic Wolves, i lupi sonici. Un gruppo formato da Vita degli UFO Mammoth, Kate Vigil degli Hounds of Asselvander, Pentagram, al basso Stefano Tocci, The Fights, rettifica la chitarra. Ci ascoltiamo dal demo dei Sonic Wolves, questa è Wolf Witch. Yeah. questi erano gli Wounds. Nuovo progetto che vede alla voce il cantante dei La Crisi, la nostra eccentrica creatività ha dato vita a un oggetto, a un'installazione, a un'opera d'arte che è la tastiera ubriaca. Eh sì, no, le tastiere che della birra sono bagnate, verrebbe da dire. Vabbè, però, cioè, non se l'hai mai chiesto nessuno effettivamente se la tastiera, insomma, è un oggetto così senza anima che sta lì a farsi, come si potrebbe palpeggiare dire, tutto il giorno. Keyboard and over. Sì, certo. Come? Niente, niente. Okay. Tastiera ubriaca. Tastiera ubriaca. Ti tolgo dall'impasse per dire un paio di cose, credo. Allora, la prima... Però gentilmente al microfono. Al microfono, addirittura. Dunque, la prima è quella che dice il 24 settembre, che è un'iniziativa che stiamo propagandando. Adesso basta, è ora di scegliere. Negli ultimi mesi si sono verificati molti casi di violenza sulle donne negli spazi che come compagni e compagne viviamo. È nata spontanea la voglia di vederci per dare delle risposte, ma anche per costruire un luogo di riconoscimento e di presa di posizione pubblica contro la violenza. E a proposito di questa cosa, è stata lanciata, diciamo, questa serie di incontri in l'occasione di Renoiz, quindi un paio di settimane fa. E il prossimo incontro, c'è un lungo comunicato che potrete trovare in giro, insomma, uno scritto, non lunghissimo in verità, che dice che il prossimo incontro ci sarà giovedì 24 settembre alle 19 dalle Cagne Sciolte in via Ostiense 137. Invece, per dirne un'altra, che stiamo preparando, lo diciamo, per il 17 di ottobre, se non vado errato, giusto? 17 di ottobre, un concertino di quelli che facciamo noi autoprodotti della radio, in cui ce la mettiamo tutta, in cui partecipiamo tutti e tutte, con chi? Con gli Scasso e con Los Tres Altos, che è pieno di S, e sapete che con la zeppola le S vengono male. Quindi, vabbè, tenetevi pronti, fra poco uscirà lo spot, comunicazioni varie, insomma, e dichiarazioni ufficiali, però così, dato che siamo in vena di anteprime, ve lo diciamo già da ora. E visto che siamo in vena di anteprime, andiamo a presentare l'ultimo lavoro, insomma. Nella scorsa trasmissione li abbiamo ascoltati. Con un pezzo del loro concerto per festeggiare appunto i loro 20 anni di esistenza. Stiamo parlando dei Razza a Parte. Siamo molto felici di farvi ascoltare questo disco questa sera, perché va appunto a festeggiare questo ventennale del 1995. Siamo stati molto felici, insomma, di registrare, insomma, la volontà di Razza a Parte di farci avere questo lavoro in anteprima, prima di tutti. Sì, tra l'altro ce l'avevano anche annunciato. Mi sembra proprio in occasione dell'intervista in cui posso sbagliare perché la mente mia. Comunque, in occasione dell'intervista del concerto che hanno fatto alla SNIA quest'estate, proprio per Radio Onda Rossa, avevano annunciato il fatto che, insomma, c'era questa roba imminente che sarebbe uscita a breve. E noi quindi ce l'ascoltiamo in anteprima. Questa è Brucia, il disco che va a celebrare i 20 anni dei Rezzo a Parte. Tra l'altro con copertina disegnata da Simone Lucciola. Altra vecchio compare, compagno, amico e disturbatore dell'etere di Radio Onda Rossa. E insomma, la mette Blood 77 e Gioventù Bruciata. Insomma, prolifico e bravo disegnatore. Nonché urlatore, eh? Nonché urlatore. Questo è l'ultimo lavoro dei Rezzo a Parte, intitolato Brucia. Ci ascoltiamo la seconda traccia featuring l'ultimo. In anteprima per Radio Onda Rossa. Dai! Sono insomma, questi erano i Razza a parte. E mi anticipavi che gli Apostati ancora non hanno gli Apostati, penso fine settembre. Sì, fanno bene. No, no, abbiamo bisogno di, come dire, di ricaricare bene bene le batterie, perché l'anno, la stagione che ci si prospetta davanti non sarà affatto in discesa, come al solito, a cominciare dai conti della radio, appunto, che non quadrano mai, per cui siamo sempre in bolletta e sempre costretti a cercare di inventarci qualcosa per appunto far vivere questa emittente autogestita, e che vive di autogestione e che vive grazie al vostro sostegno e contributo. E ovviamente, quindi, in base pure al fatto che Apostasia questa non ci seguirà, quindi è la prima volta che stavo per annunciare Apostasia, non mi è mai capitato. È vero, è vero. Va bene, dai. Solito di 25 o'clock, annunciare, sì, salutare gli Apostati del giovedì. Gli Apostati del giovedì, ma proprio di vederli qua, insomma, ce lo potevamo pure aspettare. Sarà casomai l'occasione una prossima volta di arrivare qui negli studi di Via dei Cosci 56 al primo piano per salutarli direttamente. Comunque, si ricomincia quindi domani in diretta con le prime pagine giornali, la rassegna stampa, il redazionale alle 9.30. E quando al termine della segna stampa ci dovrebbe stare forse anche Roma a Roma, non so se ha ricominciato, ha aperto i battenti, sicuramente non fino ad ora, forse domani, lo diamo per forse. Giornale radio alle 13, spazio comunicazione alle 13.30, alle 14 no, che ho letto, giovedì fermo, venerdì devo leggere. Domani è venerdì. Sì. No, fino ad ora stavamo bene. Roma a Roma, sì, eccetera. Poi redazionali, i redazionali invece è la trasmissione invece che fa gli occupanti, i compagni occupanti e le compagne occupanti che si occupano della questione della casa a Roma, quindi alle 11.15 il giornale radio, lo spazio comunicazione. Poi vabbè, può pure saltare. Che c'è dopo? Dopo niente. Cioè, a parte le 14. Niente proprio. Da vendere proprio. Niente da vendere. Cioè, proprio vabbè. Quando te ritrovi, cioè, quando niente. Cioè, ti sei venduto tutto. Niente, è rimasto vabbè. Niente da vendere. Ok, vabbè. 15.30, silenzio assordante, mi sembra molto più importante. Take it easy alle 17.15, le ore di religione credo che ancora non abbiano ripreso a trasmettere. Giornale radio alle 19.30, alle 20 spazio comunicazione. Alle 20.15 c'è in palinsesto Gypsy Balkan CPT Music, ma penso che non lo so. E poi Solaris alle 21 forse. Sei secoli prima di Cristo, i romani. E noi andiamo a chiudere così questa puntata di Do It Yourself Invasion. Salutiamo tutte e tutti all'ascolto. Il nostro abbraccio più forte va a tutte e tutti coloro che si trovano in condizioni di limitata libertà personale. Chiudiamo con un pezzo dei Congegno. Dal loro ultimo lavoro, Metamorfosi. E con questa salutiamo Luca, che ci ha prima chiamato. E con questa, insieme a lui, salutiamo tutti gli skaters di Cinecittà. Bella, a giovedì prossimo, dai!